Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una bomber, affidate le perizie su 10 reperti. Gli esperti dovranno verificare se sia possibile ricavarne il DNA per risalire all'attentatore. 11 indagati, le contestazioni dei difensori. Qatar Gate, Luca Visentini sollevato dalla guida della Confederazione Sindacale Internazionale, le reazioni dei colleghi in regione. Rete idrica Colabrodo, esposto del Codacons alla Corte dei Conti. In Friuli Venezia Giulia le perdite vanno dal 14 al 44% nei capoluoghi. Doppio parco fotovoltaico presto in funzione nell'area di Premariacco, venderà energia alla rete. Violenze sugli addetti alla sanità, a Pordenone un presidio di sensibilizzazione. Turismo, il comune di Sauris premiato in Arabia Saudita, Trieste, rito del caffè, rilanciata la candidatura UNESCO. Basket, dopo il tracollo di Brescia la Pallacanestro Trieste guarda al match di sabato contro Reggio Emilia, arriva Hudson, una ricarica per la volata a salvezza. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani. In primo piano la riapertura del caso Una Bomber. Il giudice per le udienze preliminari ha assegnato questa mattina ai periti l'incarico di analizzare 10 reperti conservati negli archivi. I difensori degli indagati contestano l'autorizzazione della procura a consultare quei reperti rilasciata per un'inchiesta giornalistica. In aula questa mattina anche due vittime degli attentati, bambine all'epoca dei fatti. Prossima udienza il 9 ottobre. Il servizio. La nuova inchiesta su Una Bomber riparte dall'incidente probatorio. Oggi infatti il GIP Luigi Dainotti conferisce l'incarico al comandante del RIS di Parma, al colonnello Gianpietro Lago e all'antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze, Elena Pilli. 11 sono gli iscritti nel registro degli indagati, 10 reperti da esaminare con le nuove tecnologie. L'inchiesta sollecitata alla Procura di Trieste dal giornalista Marco Maisano e da due delle vittime degli attentati del bombarolo del Nord-Est. Noi siamo qui appunto con Marco Maisano. Le chiedo innanzitutto, per lei arrivare a questo punto, che cosa significa dopo un'inchiesta di fatto partita da lei, dalla sua volontà di riaprire questo caso? Beh sì, la volontà c'era ed è rimasta. Oggi è un giorno simbolico, perché oggi non accadrà molto, insomma è appunto una giornata procedurale, burocratica, però è simbolicamente un giorno molto importante per me e lo è anche chiaramente per Francesca e Greta, che sono qui oggi. Come le ha viste emozionate? Loro erano appena bambine di fatto quando hanno avuto questa bruttissima esperienza. Beh, insomma sì, direi di sì, sono emozionate ma forti, consapevoli, ecco, sono due donne estremamente consapevoli, hanno voluto fare questa cosa assieme a me e quindi insomma sono emozionate, ma anch'io lo sono, ecco. La difesa dice, ma come sono stati tenuti questi reperti e anche il giornalista, perché ha avuto accesso a questi reperti, ecco, lei che cosa si sente di dire su questo? Ma io ho avuto accesso perché ho richiesto al procuratore capo De Nicolo di accedere al fascicolo e lui ha accordato questo accesso perché evidentemente lo poteva fare, no? Il caso era chiuso, quindi il fascicolo è pubblico, per cui non vedo onestamente lì la polemica. Sulla custodia non posso essere io a dire, perché non sono un tecnico, non ho idea di come siano stati conservati tecnicamente questi reperti. Erano lì dentro a un magazzino e mi auguro che siano considerati validi per quello che dovrà avvenire, insomma, ecco. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Luca Visentini è stato sollevato dal suo incarico di presidente della Confederazione Internazionale dei Sindacati, che l'aveva eletto neppure 5 mesi fa. Sono le conseguenze del suo coinvolgimento nelle indagini del cosiddetto Qatar Gate. Sollevato dall'incarico di segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati per i danni d'immagine che ha arrecato all'organizzazione in seguito al clamore delle accuse europee sulle tangenti pagate al Qatar, Luca Visentini non gode più della fiducia, scrive in una nota al Consiglio Generale del Movimento Sindacale, che lo aveva già sospeso il 21 dicembre scorso, ma anche che non vi sono prove che donazioni dal Qatar o il Marocco abbiano influenzato decisioni dell'organizzazione. Dal canto suo Visentini riafferma la sua innocenza rispetto alle accuse di corruzione e di riciclaggio di denaro, ribadendo di non aver ricevuto alcuna tangente ma solo una donazione, messa poi a disposizione del movimento sindacale che l'ha utilizzata in modo imparziale e regolare. Sul fronte sindacale regionale si registrano intanto le prime reazioni alla notizia della sua rimozione, diffusa ieri sera con una nota interna riservata inviata dai vertici di CGIL, CISL e UIL. Per Matteo Zorn, segretario generale della UIL, che il sindacalista friulano trapiantato a Trieste e ha guidato per anni prima di fare il salto a Bruxelles, si tratta di una scelta politica fatta prima che l'inchiesta della magistratura belga giunga a una sentenza di condanna o assoluzione e sulla quale la UIL regionale dice non può interferire. Zorn afferma anche di avere piena fiducia negli inquirenti, che le indagini devono fare il loro corso e se uno ha sbagliato è giusto che ne risponda. Così anche il segretario generale della CGIL William Pezzetta, che dichiara anche il suo pieno rispetto per le decisioni adottate dalla Confederazione Internazionale dei Sindacati. Auspichiamo che venga fatta piena luce al più presto su questa vicenda. E infine il commento del segretario generale della CISL Alberto Monticco, che sottolinea di aver lavorato molto bene con Visentini quando era segretario dei sindacati europei. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Esposto del Codacons alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia per la rete idrica Colabrodo, l'Associazione dei Consumatori denuncia alla magistratura contabile le omissioni degli enti locali che a suo dire avrebbero fatto poco o nulla per risolvere la criticità. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, nel 2020 in Friuli Venezia Giulia si registrano perdite di acqua superiori alla media nazionale nei comuni di Gorizia, con il 44,5% di acqua dispersa, e Trieste con quasi il 39%. Seguono Udine con il 24% e Pordenone con il 14,3%. Una situazione che, denuncia il Codacons, non solo rappresenta un grave spreco per una risorsa preziosa come l'acqua, ma influisce sull'emergenza siccità in regione, danneggiando coltivazioni, allevamenti ed ecosistemi con danni economici e ambientali enormi. Da qui l'esposto presentato oggi con la richiesta di aprire un'indagine nei confronti della regione e delle autorità di vigilanza locali per la possibile violazione dei principi di economicità ed efficienza che regolano la pubblica amministrazione. Intanto resta in primo piano la questione energetica. Nella zona di Premariacco sta per entrare in funzione un doppio parco fotovoltaico da 20 megawatt che produrrà in gran parte per la rete e sta per sbloccarsi la questione delle comunità energetiche. Lavori in corso nella zona industriale di Premariacco tra Orsaria e Paderno. Ad aprile entreranno in funzione due grossi parchi fotovoltaici da quasi 20 megawatt totali. Se ne sta occupando una società di Verona detenuta a sua volta da un gruppo milanese specializzato in progettazione e sviluppo di questo genere di impianti. Connesso con la cabina primaria di Cividale, dispaccerà energia alla rete elettrica nazionale. Sorge su un'area, 40 ettari, lottizzata per capannoni industriali. Nessuno a suo tempo aveva espresso interesse nel cambio di destinazione agricolo e così è andato all'asta. L'impianto è troppo grande per poter scambiare elettricità in comunità con la zona industriale limitrofa. Tuttavia, tra le misure compensative concordate con il comune anni addietro, è prevista l'installazione di impianti fotovoltaici per 80 kW su alcuni dei 28 edifici di proprietà del municipio. Pannelli che rientreranno nella comunità energetica che il comune sta progettando. Rispetto al regime attuale, l'avvio su larga scala delle comunità energetiche permetterà la copertura di porzioni di territorio più ampie col passaggio alle cabine primarie e una potenza massima portata fino al megawatt, oggi di 200 kW. Per questa rivoluzione mancano ancora i decreti attuativi. Dopo un lungo periodo di stallo, si attende ora il via libera, possibilmente senza richieste di modifica, da parte della Commissione europea. Gli esperti di settore si attendono a semaforo verde entro aprile-maggio. Premariacco, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:39, diamo uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo variabile sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle ore 11. A Trieste 11,5, a Udine e a Pordenone 12,5, a Gorizia 13,5. Nell'area montana a Tolmezzo 10,5, a Tarvisio 11, a Sappada 5, a Forni di Sopra 9,5, sul Piancavallo 4,5 e ancora in quota sull'Ussari 2,5, sullo Zoncolan 3 gradi, a Grado 11, a Lignano 12,5. E vediamo adesso le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per le prossime ore. Sulla regione cielo variabile con generale aumento della nuvolosità verso sera. Sulla zona montana dal pomeriggio soffierà vento da sud-ovest moderato in quota, specie sulle Alpi Giulie. Lo zero termico in serata sarà oltre i 3.000 metri. Temi del lavoro: a Trieste ci si interroga sulle nuove opportunità per le politiche attive del lavoro in un convegno a cura dello IAL e della CISL. I lavori si svolgeranno dalle 14 negli spazi del MIB al Ferdinandeo. Interverranno tra gli altri il presidente nazionale dello IAL Stefano Mastrovincenzo e il direttore della direzione regionale lavoro e formazione Nicola Manfrenk, che parlerà del piano attuativo regionale dei centri per l'impiego. Presidio di sensibilizzazione davanti all'ospedale di Pordenone contro le violenze ai sanitari. Ordini professionali, azienda sanitaria e Croce Rossa hanno analizzato il fenomeno e le possibili soluzioni. 128 aggressioni solo nel 2021, secondo gli ultimi dati disponibili dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. In un caso su tre le violenze ai sanitari sono di tipo fisico, il 25% fisico e verbale. Per prevenire il fenomeno in crescita, la Croce Rossa di Pordenone ha organizzato fuori dall'ospedale cittadino un presidio di sensibilizzazione con ordine dei medici. Il presidente Lucchini ha sottolineato l'importanza dell'educazione come forma di prevenzione, ordine delle professioni infermieristiche, Federazione Medici di Medicina Generale, Medici Cure Primarie e ASFO. Giovanni Antonaglia è presidente della Croce Rossa di Pordenone. Oggi noi abbiamo ritenuto opportuno fare un po' di sensibilizzazione alla cittadinanza e contestualmente raccogliere un questionario brevissimo di 5 domande, anche per riuscire a capire, secondo la nostra comunità, quali siano le cause che portano a questo gesto estremo di violenza. Mancanza di personale, tempi di attesa, scarsa comunicazione tra le cause delle aggressioni. Alessandro Di Lorenzo, presidente Medici Cure Primarie del Friuli Occidentale. La mancanza di personale sia sul territorio, ma sia anche all'interno delle strutture ospedaliere, sia convenzionate che pubbliche, per cui il problema nasce lì. La richiesta è aumentata, ma il personale che può naturalmente dare risposte puntuali è diminuito, quindi l'attrito si crea proprio lì. Giulia Calea è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico dell'ASFO. Le persone sono un po' più aggressive e chiedono tutto subito. Ritengo che l'aspetto importante è l'educazione e la cultura della non violenza. Irina Neculaes è un'infermiera del pronto soccorso. Vediamo tutti i giorni in pronto soccorso quello che succede e non è facile, perché subiamo un'aggressione che andiamo a casa con la paura, già il lavoro è diventato sempre più pesante e l'aggressione non è una cosa bella verso di noi. Dobbiamo far capire alle persone che noi siamo là per aiutarli, non subire ancora più violenza. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un triestino di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri perché deve scontare la pena di un anno ai domiciliari per il reato di truffa aggravata. Durante un controllo era stato scoperto a fare il buttafuori in un locale notturno mentre figurava assente dal lavoro per malattia. Dopo una vicenda giudiziaria durata una decina di anni e dopo aver perso il posto da dipendente pubblico, l'uomo è da tempo senza lavoro e ormai senza fissa dimora. Non è chiaro dove sconterà la pena. Secondo appuntamento con l'innovazione del business model dalle slot machine all'offerta di nuovi servizi. Il convegno promosso a Udine da Regione, Università, Federsanità, ANCI, Associazione dei Comuni e Confcommercio. L'incontro esamina le opportunità a disposizione degli esercenti per dismettere le slot machine e rimpiazzarle con attività di pari valenza economica. Se ne parla nella sede di Confcommercio a Tavagnacco dalle 14.30. Il comune di Sauris è tra i migliori comuni turistici secondo il bando dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Il riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia che si è svolta in Arabia Saudita. Con quello di Sauris è stato premiato anche il comune dell'Isola del Giglio in Toscana. Il bando Best Tourism Villages si propone di premiare approcci innovativi al turismo nelle aree rurali che nel tempo hanno tutelato e assicurato i valori e le caratteristiche naturali e culturali del luogo. I comuni premiati faranno parte di un network globale in cui si potranno scambiare esperienze e buone prassi anche con esperti e partner del settore pubblico e privato. Gorizia e Nova Gorizia si preparano all'appuntamento del 2025 con la capitale della cultura. Tra oggi e domani sono in programma i primi workshop tecnici dedicati al bando per i piccoli progetti, che è stato pubblicato il 23 febbraio e ha una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro. Riguarda progetti per importi da 30 a 200 mila euro. Gli appuntamenti si svolgono entrambi all'X Center di Nova Gorizia, oggi in lingua slovena e domani in italiano, con inizio alle 15. È possibile seguirli anche online tramite live streaming, in ogni caso previa registrazione. Il rito del caffè candidato a diventare patrimonio immateriale dell'umanità, tutelato dall'UNESCO, una candidatura che riprende vigore anche da Trieste, una delle città del caffè. A Trieste il caffè non è solo una bevanda, è un rito, un modo di essere, un luogo di incontro, un'importante filiera economica. Ordinare una tazzina richiede la conoscenza di un lessico unico al mondo, dal nero al capo al gocciato al capo in B. Al caffè è dedicata un'università e un museo tematico. Il legame tra Trieste e il caffè ha una storia lunga, legata al porto che risale al 1700. Non è un caso che imprese e istituzioni del territorio si siano rimesse al lavoro, insieme ad altre città italiane, sulla presentazione della candidatura del rito dell'Espresso Italiano Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO. È la seconda campagna che andrà avanti fino al 2024. Lo scorso anno la Commissione Nazionale per l'UNESCO aveva preferito portare avanti la candidatura dell'opera lirica. Ora l'idea è quella di coinvolgere di più anche i cittadini. Gianni Pistrini, presidente dell'Associazione Museo del Caffè di Trieste. È stata costituita una comunità emblematica a Trieste, ma anche in altre zone d'Italia, volte alla raccolta di firme. Se posso spiegarmi, per creare un certo consenso anche nella popolazione. Uno degli elementi su cui punta Trieste è la presenza in città di tanti caffè, tra cui i locali storici. Visto che c'è la Bora, andare al caffè era per, scusate il triestinismo, andare a ciapparla calda, quindi stare in un ambiente confortevole, dove c'era la luce, e non in tutte le abitazioni era possibile, il riscaldamento, dicevamo, e poi passo passo sono diventati dei caffè letterari, dove si riunivano i poeti, gli scrittori. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è conclusa la campagna di solidarietà Offri un caffè buonissimo, l'iniziativa che ABC, Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, promuove in collaborazione con Confcommercio Trieste e FIPE Trieste. La generosità dei clienti di quasi 130 esercizi pubblici e commerciali aderenti alla campagna ha consentito di raccogliere oltre 10.000 euro. I proventi saranno destinati all'accoglienza delle famiglie che saranno ospitate in una casa ABC. Dall'inizio del percorso di Offri un caffè buonissimo, quest'anno alla sua quarta edizione, ABC, grazie ai proventi della campagna, ha potuto supportare in termini di accoglienza nelle case e di supporto psicologico oltre 100 famiglie e ha potuto aprire le sue case per oltre 140 soggiorni di altrettanti nuclei familiari. La cultura va alla poetessa e scrittrice Vivian Lamarck per la raccolta L'amore da vecchia, edita da Mondadori, la terza edizione del premio Umberto Saba Poesia promosso a Trieste da Regione, Comune, Letz Letteratura e Fondazione Pordenone Legge. Il riconoscimento sarà consegnato il 24 marzo al Museo Sartorio. Lamarck, 76 anni, trentina di nascita e milanese di adozione, ha pubblicato una dozzina di volumi di poesie, ma è anche un'apprezzata autrice per bambini e ragazzi. Ha infatti vinto il premio Rodari e il premio Andersen, i maggiori riconoscimenti nell'ambito della letteratura per l'infanzia. Sono un migliaio finora i visitatori della mostra PPP 100, il cinema di Pasolini visto dai manifesti, allestita fino al 10 aprile al Castello di Gemona. Nell'ultimo mese di apertura l'esposizione sarà visitabile il venerdì pomeriggio e il sabato e la domenica, sia le mattine sia i pomeriggi, a ingresso libero. La mostra rende omaggio a Pierpaolo Pasolini, regista, attraverso i manifesti e le foto promozionali di tutti i film da lui diretti e di quelli a cui partecipò in qualità di sceneggiatore, autore dei dialoghi o interprete, inclusi i corti dei film a episodi, per un totale di quasi 100 documenti. I materiali originari, molti dei quali restaurati per l'occasione dal Centro Studi e Restauro di Gorizia con il contributo della Fondazione Friuli, provengono dagli archivi della Cineteca del Friuli, in gran parte dal fondo Gianni da Campo, regista, storico e collezionista veneziano scomparso nel 2014, che ha ceduto la sua vasta collezione alla Cineteca. 12.49, eccoci alla pagina dello sport. Partiamo dal basket e dal capitombolo della pallacanestro Trieste-Brescia. Ieri la sconfitta sul campo della Leonessa con 36 punti di scarto. La settimana era cominciata male ed è finita peggio, sintetizza coach Legovic, che però sprona i suoi a un pronto riscatto sabato contro Reggio Emilia. mai impartita, con percentuali da oratorio anche ai tiri liberi, messa sotto fin dalla palla 2 sul piano fisico e soprattutto dell'energia. La pallacanestro Trieste, senza Bartley, a causa di una leggera distorsione alla caviglia che però è sufficiente per fargli evitare ogni rischio, perde nettamente a Brescia 95-59, peggior prestazione della stagione. I biancorossi si erano allenati poco e male in settimana, a causa anche degli acciacchi di Davis. Il risultato è una partenza da incubo contro una squadra incredibilmente dietro in classifica, nonostante la Coppa Italia brilli in bacheca da qualche settimana. La differenza la fanno le condizioni e le motivazioni. L'unico sussulto è sul finire di primo quarto, quando 3 triple consecutive di Ruzier e Davis avevano riportato la squadra a meno 2. Dal secondo periodo in poi è una lentissima agonia, con gli stranieri di Brescia, 8 di nascita contro i 3 di Trieste, ad abusare della propria fisicità tanto in difesa quanto in attacco. Penso che dobbiamo fare di più, dobbiamo essere più bravi e più fisici, più cattivi nel momento in cui le cose non vanno bene. Ed è chiaro che oggi ci siamo presentati sicuramente non nelle migliori condizioni, ma non deve essere una scusante per ognuno dei ragazzi che è sceso in campo. Per la classifica poco male, tra le pericolanti perdono Napoli, Scafati e Verona. Sabato al Palatrieste ci si gioca un pezzo di salvezza contro Reggio Emilia, ultima. Una scarica di energia arriverà dal nuovo acquisto Hudson, già in palestra oggi. Con una vittoria gli Abbardati rimarrebbero lontani dalla zona rossa. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel biathlon 3 gare alla fine del calendario di Coppa del Mondo e tutto ancora da decidere per il podio della classifica generale. Mancano le prove di Oslo nel prossimo fine settimana, dopo che quelle di Östersund in Svezia hanno visto il prepotente ritorno di Dorothea Wierer. L'azzurra, con 2 successi, è balzata al secondo posto della graduatoria, superando la compagna di squadra Lisa Vittozzi. La Sapadina ha 818 punti, l'Altoatesina 859 ed entrambe inseguono la francese Simon, grande favorita per il successo finale, considerati 1003 punti e la condotta da leader lungo tutta la stagione. C'è il rammarico di Vittozzi per il 18° posto nella Mass Start di ieri, che ha dato a Wierer la possibilità del sorpasso. Alla Sapadina non è mancato tuttavia il carattere, che ora bisognerà conservare per i prossimi giorni. Venerdì a Holmenkollen andrà in scena la sprint, sabato l'inseguimento, domenica la mass start. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Lara Zanni e Giampaolo Mauro. Coordinamento tecnico di Riccardo Ostojic e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. 12:52, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.